tempo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Cantautrice e artista dalle tante risorse, è uscita con un nuovo album, I Buoni Spropositi. Nicole Martinez. Diciamo che allora il titolo intanto è l'ultima cosa che è arrivata, nel senso che io ho scritto le canzoni, poi a un certo punto ho detto è arrivata l'ora, è il momento in cui di queste canzoni posso farne un lavoro completo. Perché ho notato che c'era comunque tra tutte un filo, a grandi linee, un filo conduttore. Quello che caratterizza forse il disco di più è la visione su due piani contrapposti. Cioè ci sono brani che raccontano la realtà di situazioni più o meno specifiche, usando soluzioni metaforiche, no? E un'altra parte dove si racconta una realtà immaginata, usando soluzioni appunto un po' più ironiche. Quindi sul piano della realtà per me ci sono i buoni propositi, che sono quelli che elenchiamo ogni volta all'inizio dell'anno e ci diciamo, ah sì, quest'anno andrò in palestra, poi non lo fai, però una qualche possibilità che questa cosa si avveri in fondo c'è. Mentre lo sproposito sta proprio appunto sul piano dell'immaginario. Cioè nell'immaginario noi possiamo essere qualunque cosa, fare tutto ciò che vogliamo, far sì che quei desideri che in fondo sappiamo che non possono avverarsi nel reale potranno forse farlo nell'immaginario. Se io fossi la sigaretta fra le tue dita, io non mi spegnerei mai e poi mai io. Ti lascerei respirare, respirarmi io. Brucerei piano senza consumarmi mai e mai. E se io fossi il vestito sulla tua pelle io, non scivolerei da te, non mi sgualcirei. E seguirei ogni spigolo, ogni tuo movimento io. Ti seguirei ogni istante, ma io. Credo che il titolo riassuma molto bene le canzoni di questo disco. Tanto è che ci sono delle canzoni più impegnate, quelle che magari appunto si avvicinano più a una ricerca di, non so, consapevolezza di sé. Quelle stanno più dalla parte del reale, mentre altre sono proprio rappresentative del luogo dell'immaginario. Quanto c'è di femminile e del femminile nel tuo album? Allora, in realtà, cioè, allora, del femminile c'è perché è anche tanto, credo. Perché comunque sia, credo che ci sia una, non so, adesso sembra un elogio al mio modo di scrivere, però no, non è questo. Credo banalmente che se una donna si mette a guardare le cose della vita, lo fa in un modo più, non lo so, ha delle sfaccettature, ha dei canali, attraversa dei canali che l'uomo non attraversa. E lo fa forse con una delicatezza che non è scrivere in modo ermetico, è proprio scrivere in modo delicato, lasciando fluire delle idee, delle verità che non sono nascoste, semplicemente vengono dette in un modo più dolce, forse. C'è anche molto amore in questo disco, c'è l'amore per l'altro e poi quell'amore più difficile da conquistare che quello per se stessi. Sì, sì, e infatti quello diciamo che sta all'interno di quel discorso della ricerca della propria identità. Cioè vale a dire conoscersi e conoscersi, sapere chi siamo ci porta anche a accettare inevitabilmente quelli che sono i nostri limiti. Accettare i nostri limiti vuol dire anche amarsi di più. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Nicole Martinez. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network, in diretta dalle 16.